Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la penultima settimana di Eclettica dell'anno 2006, l'anno solare 2006. Noi abbiamo un'intera stagione da rispettare, stagione radiofonica che va dalla fine di un'estate all'inizio dell'estate successiva. Quindi rimarremo assieme anche perlomeno per i primi sei mesi, magari ci sarà anche qualche settimana in più, del 2007. Tutto questo in compagnia di Giulio Caperdoni o sulle frequenze di Rock FM o via internet. Il podcasting lo raggiungete in diversi modi. Io vi invito a partire da myspace.com/eclettica. Se poi volete ricevere anche le playlist di questa trasmissione direttamente dalla vostra casella di posta, potete iscrivervi alla lista nera scrivendo giulio@radiorockfm.com. E colgo l'occasione per ricordarvi che quest'anno abbiamo iniziato a raccogliere i vostri nomi per la classifica di fine anno solare, le 10 canzoni che più vi hanno emozionato degli ultimi 12 mesi di Eclettica. È un'idea partita da qualcuno di voi, qualcuno l'ha interpretata anche a modo suo, non vorrei essere stato frainteso per quanto scritto, mi è piaciuta molto l'interpretazione grafica colorata che andava benissimo all'interno della pagina di MySpace, però vorrei avere anche il dettaglio delle 10 canzoni preferite in modo poi da poter tirare le somme. Come al solito partiamo con gli Incipit e anche l'autore di questa settimana deriva da un suggerimento da parte di uno di voi. Era una volta giovane e aggiornato e lucido e sapeva parlare di tutto con nervosa intelligenza e con chiarezza e senza far tanti retorici preamboli come fa ora. Questo era l'incipit dei Sotterranei di Jack Kerouac. Pas de chance, Monsieur Carré. On se moque de lui. On lui fait la tête au carré. Il finit souvent rond. Rencontra Madame Cercle. Et depuis, mes amis, ils ne voient plus les choses sous le même angle. Mais Monsieur Carré, allons. aspettato un bisognino di vacca, eh? No, sono l'unico fortunato. Ci vediamo fra un minuto. Credi che lo odierei così tanto se non fosse mio fratello? Non ho la minima intenzione di perdere un incontro galante solo perché ho le scarpe piene di merda. Testify. Parlato anche settimana scorsa, ho deciso questa settimana di dargli attenzione perché grazie alla Ponderosa finalmente sono entrato in possesso dell'intero album. Sto parlando di Pier Sfaccini, che ci siamo appena ascoltati con Tearing Sky, il suo album da cui ho estratto If I, album prodotto da J.P. Plunier, produttore del giro di Ben Harper, e infatti è uno dei nomi che vengono in mente ascoltando perlomeno questa If I di Pier Sfaccini. Spero che non me ne voglia per quello che ho detto. Fra l'altro Pier ha avuto anche l'occasione di aprire alcune delle date italiane, delle ultime date italiane di Ben Harper stesso, che compare anche come backing vocals all'interno di questo disco. J.P. Plunier l'ha conosciuto vedendolo suonare di spalla ad un tour californiano di Amadou Mariam, e da lì gli era venuta l'idea di produrre Pier Sfaccini, artista di passaporto inglese, origine italiana e residenza francese. Quindi quanto mai distribuito geograficamente. Invece abbiamo aperto Eclettica rimanendo in questa situazione a cavallo fra più nazioni con un gruppo italo-francese, quando all'interno di Eclettica c'era ancora spazio per Demolition, che poi ha seguito altre strade. Avevamo dedicato attenzione alla band dei Grey Moon, che fanno di base a Venezia, ma alcuni dei componenti sono francesi, che sono usciti per la loro Macaco Records con una nuova prova il 20 di novembre. La Lanterne Magique è il titolo dell'album, da cui io ho estratto la traccia numero 2, traccia numero 2 che ha per titolo a sua volta Mocha. Giulio Caperdoni che prosegue con Eclettica assieme a Jacob Stories. Jacob Stories, prima di passare ad una traccia, come promesso, diversa dalla solita, dal suo fledgling, andiamo sulla solita, ovvero sia Unfinished Idea number 209. Poi settimana prossima cambieremo registro. Yeah. of colors and full of fluid. Ecco, prima quando vi ho parlato dei Grey Moon ho citato Demolition come rubrica fino a qualche tempo fa all'interno di Eclettica. Se quella rubrica, se quello spazio Demolition ci fosse ancora stato ai giorni nostri, sicuramente ci sarebbe rientrata questa band Baby Blue. Ci rientra solo parzialmente, perché in Demolition rientrare voleva dire sì essere trasmessi come disco ma anche essere intervistati. Ci rientra solo parzialmente grazie appunto a questo demo. Ancora non c'è niente di ufficialmente registrato, lo stanno facendo proprio in questi giorni. Però io l'ho trasmessi con il brano River perché mi sono piaciuti veramente tanto dal vivo l'altra sera. Ho avuto occasione di vederli qualche sera fa e mi hanno particolarmente colpito, cosa che non mi succedeva con un gruppo italiano agli esordi da un po' di tempo a questa parte. Sono curioso di sentire cosa poi riusciranno a mettere effettivamente su un disco fatto con tutti i crismi. Eclettica prosegue con la musica che arriva dalla Svezia, la Svezia degli Ingenting, il gruppo con le parentesi quadre, ma il gruppo che ha anche un'altra caratteristica, quella di cantare nella lingua madre. Questa è Punk Drama. John, che piacere vederti. Come stai? Come stai? Bene, bene. Ti presento... Kerry. Kerry. Molto piacere, io sono John. Ciao, John. Come sta la tua meravigliosa fidanzata? Non è più la mia fidanzata. Ah, peccato, però forse in te non la rimpiangerei. So che mentre stavate insieme si scopava Toby Delisle, nel caso tra voi fosse finito. È diventata mia moglie. Sì, molto, certo. Eccellente, davvero eccellente, congratulazioni. Scusatemi. Stuff, there's noise and the roar I'm in. I have a hard time to really begin. Begin this walk towards the heart of things, yeah. To see clearly what today might bring. I see you tall and strong in front of me. Your ideas are so bright and free. Intentions that are wings to fly. Leave me so dangerously high. And if nothing comes out of this, whoa, of all worth, I already feel touched, and I already feel kissed. I've seen this brighter kind of blue. A friend, this goes out to you. Sometimes I ask myself what I'm doing here, doing what I do. Try to figure out the right and to be good and true. Be present here with my friends and my family. Oh, being right here in the moment, today, tonight. I'm praying this goes out to you. This goes out to the fours of praying now. This goes out to you. I've seen a brighter kind of blue. I've seen a brighter kind of blue. This goes out to the voice of praying. This goes out. Oh, yeah. Eclettica. Fine della prima parte.